Ritorniamo insieme con i migliori ospiti di RadioTube in questa puntata speciale e parliamo di televisori. I dati sono chiari, il Guardian parla di un calo del volume di vendita pari a 500.000 apparecchi televisivi in meno di un anno, sì, nel Regno Unito. Sì. Negli Stati Uniti si calcola che tra 10 giovani che mettono su casa, solo 2 la corredano di televisore. Sai da dove sto prendendo questi dati? Sì, dalla Repubblica. Dalla Repubblica di giovedì 11 dicembre, se scompare il televisore così bello e così inutile, che è l'articolo che è apparso appunto giovedì su Repubblica in prima pagina di Stefano Bartezzaghi. Buonasera Stefano. Ciao. Eccolo qua, io so un retroscena, praticamente pezzo. Cosa? Che tu hai scritto comprando un quadernino nuovo per l'occasione. Sì, perché ero in giro, adesso questi maledetti strumenti consentono la reperibilità, per cui è arrivato questo input dal giornale, non potevo dire di no, ma quasi non potevo neanche dire di sì, per cui insomma, mi sono arrangiato con pezzi, con mezzi di fortuna, insomma, come se fossi d'altra parte, appunto, gli inviati in zona di guerra fanno ben peggio, io ero a Milano e insomma me la sono cavata in qualche modo. Bello, però, mi piace l'idea che sei entrato in un posto e sei comprato un quadernino per scrivere il pezzo, è bellissimo. Sì, mentre il tablet sta uccidendo la televisione, però si compra un quadernino per scrivere un pezzo. Chissà come l'ha mandato, però. Poi con lo smartphone. Ah, vedi? Però l'idea di scriverlo sullo smartphone, dato che appunto non sono della generazione digitale né nel senso controanalogico né nel senso proprio del digitare, non mi andava. Quindi l'ho copiato. Potevo scegliere di dettarlo, ma non so se ci sia ancora il servizio. Non sappiamo. Senti, nell'articolo racconti, oltre al fatto che sta morendo il televisore, che tutto sommato è un oggetto, può darsi che verrà sostituito da altro, oppure no, dici anche che sta venendo meno la visione collettiva. Beh, ma il dato poi è quello, no? Cioè, il televisore diminuisce le vendite. È un po' a me ha fatto impressione, per esempio, che i dati italiani di quest'anno sono ancora previsionali, perché c'è ancora di mezzo Natale, però comunque prevedono una forte diminuzione, e questo è stato l'anno dei mondiali, quindi che normalmente è l'anno in cui le famiglie comprano il televisore nuovo. C'è anche da dire che qualche anno fa c'è stato lo switch off, molti hanno cambiato il televisore quando il segnale è diventato digitale, e quindi magari sono televisori ancora relativamente nuovi. Però è in crisi, diciamo, la vendita dei televisori, ma non la televisione, perché come diceva giustamente Marta, il fatto è che la televisione si può vedere in tanti altri modi. Peccato che non siano modi, appunto, cioè non c'è più il tabernacolo nel salotto, ognuno se la vede, si vede le cose un po' on demand, nel momento in cui vuole, le registra, no? Ci sono tutti una serie di sistemi. Tra l'altro molti di questi sono legali per molti di questi non tutti, non tutti, perché molti l'anima di questi briccona ce l'abbiamo, però appunto ognuno sceglie quando vederlo, e se lo vede poi casomai te lo mandano, dici guarda che bella questa canzone che appunto è passata X Factor. E la cosa meravigliosa è che ciò viene chiamato condivisione. Allora sì, è come la rete che ci rende soli, però siamo tutti in rete. Sì, insomma, è questa cosa qui. Non ho giudizi da dare al proposito. C'è la televisione classica, ci sono i video di YouTube. Daniele era tutto contento perché mi ha detto: ah, che bello, non facciamo le classifiche. Invece c'è la classifica di YouTube. No, ma non è che c'è la classifica. Sì, c'è di YouTube. Sì, allora vabbè. Sì. Nella top 10 c'è anche Suor Cristina, ripeto, sì, appunto, come sopra, appunto, Suor Cristina tra i più visti del mondo. Ma qual è il video più visto al mondo? Ne mostriamo solo un pezzetto alla radio perché va spiegato. Sì, va molto spiegato. Valeria, per fortuna siamo alla radio. Mostriamo però un pochino alla radio di quello che accade in questo video, qualche istante. Chiarissimo, no? Come potete vedere. Fa paura. Cioè, allora, Mutant Giant Spider Dog, hanno preso un cane, sì, polacco, dicono il cane è polacco, il video è polacco, e gli hanno messo sentite i versi, gli hanno messo un costumone da ragno per far spaventare la gente. E la gente si spaventava parecchio, scappava. Sì, e questo anche video è il più video dell'anno. Questo deve farci riflettere. Tra le 10 cose più viste su YouTube non è che ci siano proprio dei finto capolavori o dei fatti no. di cronaca. Invece in Italia, vabbè, ancora ancora. Poi c'è il tormentone delle friture dei The Jekyll, degli effetti di Gomorra sulla gente. Primo e c'è bacio. She is the World. Sì. Di Renzi in inglese, c'è Favij, insomma tutto quello di cui abbiamo parlato quest'anno. Molto intrattenimento, si vede molto l'intrattenimento. E quindi Stefano, mi viene da chiederti, alla fine noi ci guardiamo questi video, ci guardiamo la TV, diciamo. Ma certo, la TV indifferita, cioè si salva solo il grande evento, cioè si salva solo l'X Factor che twittiamo e per il resto vediamo quello che vogliamo nel momento in cui vogliamo, Stefano. Ma sai, quando c'era solo intanto la televisione e il televisore, andava da matti il processo del lunedì. Sì. Mi pare che, no, dal punto di vista, poi appunto anche qui, no, la TV di qualità, chi stabilisce la qualità, soprattutto a quei livelli quantitativi, no? Hermanes diceva che sopra le 10.000 copie incomincia l'equivoco, quindi quando si va su prodotti di massa è veramente molto difficile poi applicare delle categorie estetiche o addirittura morali. Quindi non penso ci sia una degenerazione, ci sono delle cose che vengono ritenute divertenti e allora appunto diventano, come si dice adesso, virali, e già il nome contiene una qualche inclinazione verso il male. Io penso che poi tutto sommato anche potersi costruire il proprio palinsesto, vedo il rischio appunto del fatto che si continua a chiedere soltanto quello che si sa già, si immagina già che possa interessare, no? Mentre la logica sia del giornale che della radio che anche del palinsesto televisivo è che per caso ti poteva capitare di vedere qualcosa che non sapevi che ti piacesse. Adesso è tutto consegnato un po' al tam-tam, no? A quello che ti può raggiungere, quindi forse c'è una diminuzione di probabilità di venire a contatto con qualcosa che non ti sei scelto, che non viene scelto dalla cerchia dei tuoi amici. Ma sono tutti processi molto, cioè, su cui siamo molto bambini, siamo infanti rispetto a questi, però non sappiamo ancora come usarli. Noi abbiamo un certo passato di discussioni sulla carta stampata, l'informazione su internet, i grandi giornali non hanno ancora una politica molto certa e sicura di sé su come fare informazione, integrare l'informazione sul web, perché non abbiamo ancora capito come usare questi strumenti. Sono strumenti a disposizione di tutti, molto molto aperti, molto facili da usare, anche che costano poco, e quindi può essere che vincano delle piccole iniziative, e le grandi agenzie in questo momento sono un po' spaesate, almeno così a me pare. Allora, in realtà è una notizia che a me ha fatto molto soffrire, perché io ero una grande fan di Mango. A me piaceva tanto, noi l'anno scorso sorridevamo tanto perché noi ce l'aspettavamo tra a i cantanti Sanremo. Finalisti a e Sanremo. Io avevo fatto Volevo Mango. Sì, l'hashtag Volevo Mango, perché si diceva che dovesse essere a Sanremo, eravamo convinti. La condivisione prima su YouTube di un video caricato da un sedicente fan che era lì al concerto e ha filmato il momento della morte di Mango, di fatto, quando si è sentito male, fino insomma poi ai durante soccorsi, la sua canzone, sì. Oro. E poi la condivisione delle testate online. E io ho sofferto molto e a botta calda ho twittato che questa cosa mi spiaceva molto, che secondo me non aggiungeva niente alla notizia, era una cosa che avrebbe fatto soffrire la sua famiglia. Daniele, tu non sei d'accordo con me e sarei curiosa anche di sapere cosa ne pensa Stefano. Daniele? Bisogna capire quando appunto si ferma o no il diritto di cronaca, però quello che diceva Stefano ovviamente è giusto. Forse si ritorna, Stefano, anche a questo aspetto della percezione di un'audience immediatamente verificata. Tu lo dicevi un po' anche prima, la rete ti dà la sensazione che poi si vada tutti nella stessa direzione, perché tu hai la percezione, non è detto che sia la reale audience, che il successo di una determinata cosa sia immediatamente quantificabile. Questo come cambia il modo di favorire la creatività, di partire con iniziative di creatività? Ah beh, saperlo, quella sarebbe un'equazione ovviamente ovviamente vincente, poi bisogna vedere anche che cosa si vince. Le persone che ormai i professionisti di internet che sanno come spingere un evento tramite social network, tramite tutte le attività che vediamo sulle nostre timeline, appunto sanno come fare.

argomento vogliamo parlare questa settimana, visto che in queste puntate sempre politica, sempre politica, sempre politica, cambiamo un po', perché tu mi dici sempre che parlo di Renzi. Tu parli sempre di Renzi, sempre una cosa di Renzi. Non lo so. Se pensa fossi che invece Renzi, poi ne gli ascoltatori del Sabato del Villaggio, ci sono alcuni ascoltatori che mi scrivono che io parlo sempre di VIP che si spogliano, e questo abbiamo dato anche questa puntata. Quindi allora abbiamo amore, lasciamo perdere, parliamo. Lasciamo perdere anche quello, l'abbiamo battezzato di parliamo sport e cultura. Sport e cultura, secondo me anche un po' di arte, perché in uno di questi video, insomma, si parlerà anche di arte. La scelta di affrontare questo tema è stata di Daniele, che è un appassionato, abbiamo sempre parlato di Inter, ma è ancora più appassionato di questo argomento. Io introdurrei l'argomento e anche l'ospite con questo video che tu hai scovato su YouTube, quando tu vai a cercare le cose vecchie, no, e vai nelle soffitte di YouTube. Sì, ma io perché mi studio, capito? Leggendo il libro di cui poi parliamo, sono risalito al video che stiamo per trasmettere. Allora, il video è tratto da una vecchia VHS che questo account di Twitter, che questo utente di Twitter ha trovato in una soffitta. Si intitola Come Fly With Me e ne mostriamo qualche secondo alla radio. Un giovane. Con sogni di grandezza sul diamante del baseball. Posseduto da quella voglia che ti può fare arrivare. Queste sono visioni di quello che avrebbe potuto essere. Ma la realtà non è mai stata così bella. Il piccolo eroe del baseball giovanile di ieri è diventato oggi il più eccitante atleta del mondo. La sua eleganza in campo ha trasformato la pallacanestro in una forma d'arte. Eccola qui, la forma d'arte, ma che bella questa voce, mi fa venire voglia di appassionarmi allora, di pallacanestro. Allora, io ti dico che promettendogli che non gli facciamo la domanda se è meglio Jordan o LeBron James, abbiamo al telefono Flavio Tranquillo. Buonasera Flavio. Buonasera a voi. Sai che, allora, io che... Lo devo ammettere subito, non capisco nulla di basket. Mi sono emozionata, è bella quest'epica di una storia. Ma sentissi le partite, le telecronache. Ah sì. Beh, allora io ti lascio però soprattutto nelle mani di Daniele. No, che è un tuo fan totale. Sì, no, lui lo sa, lo scrivo su Twitter, non ci conosciamo, ma insomma è come se... Io conosco benissimo lui perché vivo... È quasi il mio analista, l'ho detto in un'altra puntata. Sentire le telecronache di basket di Flavio Tranquillo è un modo per lenire anche le sofferenze della giornata. Capito Flavio, sei diventato anche analista di Bellasio. Però no, ma prima di darti questa responsabilità dico subito che il libro che stavo leggendo, da cui sono risalito a questo video, si intitola Altro tiro, altro giro, altro regalo, Baldini e Castoldi, e lo ha scritto Flavio Tranquillo per raccontare il basket sotto diverse forme di punti di vista, punto di vista culturale, dal punto di vista anche economico, perché nel libro ci sono un sacco di parallelismi con la conduzione di un'azienda, cosa che peraltro Tranquillo ha anche studiato nella sua vita, e anche dal punto di vista culturale, perché ci sono un sacco di insegnamenti proprio di vita quotidiana. Flavio, è così? Intanto mi avete fatto sentire questa voce da dodicenne, di cui non mi vergogno di certo, ma insomma è passato qualche anno. A qualche annetto questa videocassetta trovata da un utente di YouTube e messa in rete? Sì, decisamente a qualche annetto come me. E l'altra cosa è che ci dice di dove fosse l'NBA a quell'epoca, credo fossimo alla metà degli anni Ottanta, ed erano già appunto in grado di costruire l'epica per un giocatore a decine di migliaia di chilometri di distanza, e diciamo che mi sembra che col senno di poi ci siano riusciti abbastanza bene, non solo nel caso di Jordan, ma soprattutto in quel caso. I social network, quando si parla di sport, sono ovviamente infarciti di calcio. Io anche quando non sto guardando i canali sportivi mi accorgo se c'è una partita di calcio, perché mi basta aprire la mia timeline di Twitter e tutti stanno commentando le partite. Però anche di basket si parla tanto in rete. Certo. questo mi sembra un pochino, diciamo, ma lo dico scherzando, ma è carino o è carina? No, però è un tipo. Esatto, è l'abbiamo già detto. Un tipo, una tipa. Però io, non certo per spirito di bandiera e per comune passione con Daniele, io starei attento a contestualizzare questa, questa situazione rispetto alle fasce di età. Io sono abbastanza sicuro che l'NBA arrivi dai quindicenni, diciottenni, ventunenni, forse anche dodicenni, anzi senza forse, tanto quanto ci arrivano la Premier League e la Serie A. Per cui oggi è così, domani non sarei più così sicuro che sarà così, perché negli anni Ottanta l'NBA aveva bisogno di quello con la voce da efebo, ed era un certo tipo di impatto. Oggi è molto diverso, molto più presente, quindi magari tra 10 anni saremo qui a dire di come non solo l'NBA ma altri sport, altre realtà convivano con il dio calcio. Flavio, le tue telecronache sono al di là quasi della partita, ogni tanto mi viene di dire quasi degli oggetti di culto, nel senso che tu hai un linguaggio di per raccontare le cose, una preparazione, una passione che traspare dai toni che cambiano, per cui la telecronaca stessa diventa un po' uno spettacolo anche a sé stante. Ne sei consapevole? Soprattutto leggendo il tuo libro mi pare di capire che non ti dispiaccia nemmeno il fatto che sia una cosa un po' da iniziati, insomma bisogna fare un po' di fatica per entrare in quel mondo? E qui la risposta sarebbe complessa. La verità è che l'NBA è fatta di particolari fasi della stagione in cui non sempre la partita ha il richiamo che può avere una partita di finale o la gara 6 del 98 o comunque una partita di altissimo livello con grande forza in palio, è fatta anche di altro. Quindi l'idea è cercare di illuminare anche tutte quelle fasi e facce del pianeta basket ed NBA che normalmente non è facile illuminare. Alcune di queste facce necessitano anche di un linguaggio per iniziati, però questo non significa doversi sentire esclusi, secondo me. Se io sono attirato da una cosa, credo di voler fare qualsiasi tipo di sforzo per riuscire a penetrare dentro quel territorio. Se non sono attirato, ovviamente non mi importa. Io la musica sinfonica la rispetto, ma non la capisco perché non la voglio capire, perché non mi attira istintivamente. La musica rock, anche se non so suonare, mi attira e quindi cerco di andarci dentro. È un po' questa l'idea. Io che sono un'appassionata invece di gossip, di storie di costume, di notte, perché io di notte, siccome dormo poco, sempre guardando sui social network, vedo un sacco di siti americani, eccetera, ci sono un sacco di gossip che riguardano i giocatori di basket. Ma guarda, sai cosa scrive tranquillo nel libro? L'unico vero reality show si chiama Pallacanestro. Ah, come mai? Ma questa non è una frase mia, come molte del libro, ma è di David Stern, l'ex commissioner dell'NBA. Cioè l'idea è che lo sport sia un reality show, però senza la sceneggiatura. Poi si può leggere anche nel senso di cui parlavi tu, Marta, ovvero sia, se vogliamo del gossip, l'NBA ce ne fornisce quanto ne vogliamo. So, mezz'ora fa stavo leggendo che Blake Griffin, stella dei Clippers, dovrà comparire in tribunale perché in un nightclub gli è stato notificato un provvedimento per violenza nei confronti di uno che voleva fotografarlo. Queste persone vivono assolutamente in una dimensione da gossip, è un territorio parallelo al basket. Diciamo, il mio interesse è contenuto, ma non si può far finta che non esista anche questo territorio. Ma secondo te è colpa del calcio, è colpa del monopolio del calcio in TV, questa mancanza di epica sportiva, che poi secondo me è anche un po' mancanza di cultura sportiva, basta vedere quello che succede ai campetti di periferia delle partite più amichevoli. Mamma mia, gente che si mena, che mena gli arbitri. Ma leggevo l'altro giorno, nel libro c'è un capitolo sugli arbitri, io sono stato arbitro, sì. Leggevo l'altro giorno che c'è in Italia una media superiore all'arbitro al giorno, mi sembra siano 372 arbitri per 365 giorni che vengono fatti oggetto di violenza. Il problema dire è colpa del calcio sarebbe molto facile, per uno per esempio come me che non apprezza tantissime cose del pianeta calcio, ma sarebbe veramente tragico a livello intellettuale perché è disonesto. È ovvio che non è colpa del calcio, semmai si può dire che oggettivamente, siccome il 90% dello sport viene associato al calcio, probabilmente anche il 90% di queste violenze, ma non per colpa del calcio, per un fatto proprio quantitativo. Lì andare dentro al perché di queste violenze sarebbe molto molto lungo e molto difficile, però non andarci dentro è quello che permette a questa violenza al giorno di avere luogo senza neanche che noi ce ne accorgiamo, anzi noi diciamo vabbè, hanno picchiato un arbitro, è normale, perché questo pensiamo, è inutile che ci giriamo intorno. Ringrazio ancora tantissimo Flavio Tranquillo, buonasera Flavio. Ciao. Saluti a voi, buona serata. Ciao. È finito il tempo a nostra disposizione, sono finite le tre ore del sabato del villaggio. Allora, se siete sadomasochisti, sabato prossimo alle tre, il sabato del villaggio con Marta Cagnola e tanti ospiti. E poi se lo siete 17. Un po' meno masochisti, alle 17. Ma se invece proprio volete farvi del male oppure proprio volete coccolarvi, podcast. Lunedì c'è il podcast. Anche di tutte e tre le ore assieme o devi comprarle spezzettate? Non dire comprarle, no, scaricarle. Anche separate. Ci separano. Separano. Beh, è finito il tempo a nostra disposizione. Devo ringraziare Paolo Corleoni in regia per quest'ora di RadioTube. Ci ritroviamo con il sabato del villaggio sabato prossimo alle 15. Ciao.